versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16:31 primi 36 secondi, qui in diretta dagli studi di Milano di Radio 24. Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto, vi ricorda l'indirizzo versione di Oscar @radio24.it per proporre temi e argomenti. Allora vado subito alle due questioni che trattiamo insieme oggi pomeriggio per vedere se avete voglia di intervenire, e io mi augurerei di sì, mi augurerei che siate in parecchi, perché sono due esempi di come lo Stato si comporta nei nostri confronti e a me, devo dire la verità, mi inducono parole che non posso usare in diretta, in radio, per rispetto delle opinioni di ciascuno, che magari sono diverse dalle mie, e per rispetto ovviamente delle giuste convenzioni obbligate per cui un conduttore radiofonico non può trascendere. Però sono due cose tra ieri e oggi che mi hanno veramente confermato nell'opinione che c'è poco da fare. Viviamo in una condizione nella quale lo Stato si fa delle norme che, diciamo, mettono a dura prova la capacità di sopportazione e giustificazione di noi contribuenti. Quali sono queste due vicende? E voi chiamateci all'800240024 per dirci come la pensate. La prima ce l'ha rinfrescata ieri sul Corriere della Sera l'ottimo Sergio Rizzo. Di che cosa si è trattato? Del fatto che per una leggina risalente al governo Prodi, IDS, una delle sigle della successiva evoluzione dal PC all'attuale PD, ricordate, PDS, DS, PD, IDS sono riusciti, pur tenendo nelle loro mani, sotto controllo, il loro patrimonio molto rilevante intestato a fondazioni regionali del partito, l'ottimo dal loro punto di vista amministratore Sposetti, parlamentare, storico amministratore del partito, riuscì a preservare l'intero patrimonio del partito, però i debiti della vecchia unità dei DS, quelli li abbiamo pagati noi, 107 milioni di euro versati dallo Stato nei giorni scorsi, e se ne aggiungeranno con ogni probabilità altri 18 milioni di euro. Si è in attesa ancora di una formalità giuridica, però sta di fatto che i DS hanno mantenuto il patrimonio mentre noi contribuenti abbiamo pagato i loro debiti verso il giornale di partito. Naturalmente quella leggina era appunto per i giornali di partito, sta di fatto che ad averne approfittato per un numero di milioni molto inferiore, 9 milioni circa, il vecchio Avanti del PSI, però di fatto loro hanno portato a casa 107 milioni più 18 milioni, quindi diventeranno 125 milioni di euro di debiti non pagati e sulle spalle del contribuente. È giusto? Per un partito politico con tutti i finanziamenti avuti, ottenuti negli anni, eccetera? Io dico di no, non capisco perché il contribuente debba pagare questa roba. E questa è la prima vicenda. Seconda vicenda, questa riguarda i dirigenti illegittimi delle agenzie tributarie e in particolare i quasi 800 dirigenti illegittimi dell'Agenzia delle Entrate. Sapete che sono illegittimi perché dopo anni che alcuni di noi, tra cui io, battagliavamo perché i dirigenti delle agenzie tributarie erano a nomina a tempo e secondo cordate personali, quindi con regole del tutto anomale nella pubblica amministrazione, intervenne poi la Corte Costituzionale con la sentenza 37 del 2015 nella scorsa primavera, dicendo effettivamente hanno ragione i signori che, come Giannino ed altri, minoranza assoluta, protestano. Questi dirigenti sono illegittimi perché possono essere dirigenti solo se vengono chiamati al ruolo con un regolare concorso. E allora, dopo aver elogiato la Corte, dopo aver battagliato ulteriormente perché il governo non accogliesse la richiesta dell'Agenzia delle Entrate, stentoreamente avanzata dalla direttrice Orlandi, di una sanatoria comunque, perché già erano stati sanati ai tempi del governo Monti i dirigenti illegittimi, cosa che il governo non fa, per fortuna, dopo aver censurato il vertice dell'Agenzia delle Entrate che aveva detto a tutti i contribuenti italiani: beh, adesso però non vi mettete a perdere testualmente tempo e denaro per impugnare gli atti e le cartelle esattoriali che promanano da dirigenti legittimi, perché sarebbe tempo e denaro perso. Naturalmente posizione puntualmente smentita da decine di pronunce delle commissioni provinciali tributarie e regionali tributarie, ieri arriva il giorno della verità, cioè la Corte di Cassazione. E che cosa decide la Corte di Cassazione? Che naturalmente gli atti fiscali e le cartelle promananti dall'Agenzia delle Entrate, pur firmati da dirigenti legittimi, restano validi! Validi! Basta che sia indicato il nome e quindi non è motivo di nullità. Anche se il dirigente è illegittimo, non è motivo di nullità. Ribaltate tutte le pronunzie del giudici tributari sottostanti. Quindi, in altre parole, noi viviamo in un paese nel quale la pretesa fiscale dello Stato, lo Stato decide, dà ragione a se stesso dicendo che è valida anche se è fatta con un falso in un atto pubblico di una firma di un dirigente proclamato illegittimo dalla Corte Costituzionale. Allora, queste norme così asimmetriche, perché lo Stato si dà ragione da solo sulla sua pretesa, mentre ovviamente ogni vizio di legittimità e liceità da parte del contribuente privato, questo espone a sanzioni terrificanti, ma lo Stato si dà ragione da solo. E i partiti si servono dei soldi dei contribuenti per ripianare i loro debiti rispetto ai quali sono inadempienti, mentre difendono il loro patrimonio, la vicenda precedente. Allora, io vi chiedo di telefonare per dire come la pensate, perché stamattina poi parlandone anche con Alessandro Milan, attenti a noi due, lui dice: ma tu esageri, in fondo bisogna rispettare le leggi, le sentenze della Corte di Cassazione. Ho capito, ma bisogna solo abbassare la testa in questo paese di fronte a cose così manifestamente ingiuste? Solo abbassare la testa? Io non propongo a nessuno di rompere le vetrine, di disselciare le strade, di lanciare lacrimogeni e petardi. Non faccio gli inviti al sabotaggio, che pure hanno fatto passare Re De Luca per un eroe del libero pensiero. Neanche questo dico niente. Ma santo Dio, ma quando è che ci svegliamo? Quando? Quando ci abbiamo messo anni per fare dichiarare alla Corte Costituzionale illegittimi dei dirigenti illegittimi e tutto finisce a tarantella, biscottucci e vino? Bah, francamente. Allora, però il mio commento vale poco. Allora ho deciso oggi di chiamare il segretario dei radicali italiani. Il segretario dei radicali italiani lo è diventato da pochissimo, da pochi giorni. La battaglia precedente che lo vedeva impegnato era consigliere comunale a Roma, quindi in un altro epicentro di una bella vicenda italiana, per così dire. Parentesi: gli 80 milioni che il governo non aveva sbloccato per il Giubileo fino a ieri, oggi ci hanno comunicato che diventano 300 milioni invece deliberati venerdì dal governo al commissario Tronca, che può spendere fino al 2016. Che singolare asimmetria, vero? Però vabbè, ed è con noi quindi il segretario dei radicali italiani, Riccardo Maggi. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, Riccardo. Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori. Allora, voglio sapere come la pensi come segretario dei radicali innanzitutto sulla prima vicenda, cioè sui debiti dei DS all'unità pagati dai contribuenti. Questa vicenda è l'apoteosi del finanziamento pubblico, perché non solo è un caso tipico di socializzazione delle perdite, diciamo, e privatizzazione dei guadagni, in questo caso le perdite sono i debiti fatti attraverso l'unità e i guadagni sono il patrimonio che negli anni gli ex DS hanno potuto acquistare, patrimonio immobiliare soprattutto, e che l'allora tesoriere, ora senatore Sposetti, ha provvidenzialmente messo da parte in una serie di fondazioni che corrispondono alle federazioni provinciali del partito. Ma c'è di più: questa vicenda racconta di una concezione del partito che viene vista come una vera e propria articolazione dello Stato. Cioè, mi chiarisco questo punto: in base alla normativa attuale, le amministrazioni pubbliche, ad esempio, non possono ripianare le perdite di aziende pubbliche o partecipate che abbiano perdite per più di 3 esercizi consecutivi, e diciamo noi giustamente, perché altrimenti è un danno erariale. Ma in questo caso, nel caso dei partiti, l'amministrazione statale si fa carico preventivamente e alla cieca di qualsiasi perdita. Cioè, magari l'unità è stata gestita in modo dissennato, producendo decine e centinaia di milioni di perdite, e lo Stato preventivamente ha detto: non c'è problema, me li accollo io, se li accollano gli italiani. E poi noi non possiamo non pensare che magari qualcuna delle banche che ha fatto credito all'unità l'ha fatto sapendo che comunque c'era questa garanzia statale. Già. Allora, naturalmente, io vedo che c'è già Riccardo chi dice: ah, ma che cosa vuol dire? Dall'altra parte c'era Berlusconi che pagava tutto di tasca sua. A parte il fatto, caro ascoltatore, che se pagava di tasca sua non è la tasca nostra, che già mi sembra una differenza non da poco. Poi, con questo criterio, se le storture della politica patrimoniale da una parte, Berlusconi è stato questa cosa qui come evidente, servono a legittimare le storture della confusione tra Stato, partiti, in tutto il nome del denaro e contribuente dall'altra, peggio mi sento, cioè io voglio che non ci sia né l'una né l'altra cosa. Tu come la pensi, Riccardo? Ma è assolutamente così, ma insomma il finanziamento pubblico in questo paese doveva essere abolito dal 93 col famoso referendum promosso da noi radicali e che ebbe più del 90% del consenso da parte dei cittadini. È stato reintrodotto con una modalità che possiamo definire truffaldina, perché si parlava di rimborsi, ma rimborsi non erano, perché non erano corrispettivi, diciamo, di una spesa documentata, erano stimati in maniera molto larga e ci sono costati 2 miliardi di euro in 20 anni, sono cifre quantificate dalla Corte dei Conti, che ha effettivamente a un certo punto detto: beh, qui la legge è stata, diciamo, l'esito del referendum popolare è stato raggirato in più fasi nel corso degli anni. Questa leggina in particolare, come dire, dà completamente mano libera a chi gestisce il patrimonio dei partiti e, ripeto, a chi lo gestisce in maniera dissennata. Io credo che a noi partiti non debbano, a noi contribuenti, non dovrebbero costare un euro delle nostre tasse. Io sono contrario anche al 2 per 1000, quest'altra modalità che è stata inserita. Francamente anch'io. Anche perché, come dire, noi dovremmo vedere al centro della vita politica il cittadino, non il partito. Queste norme hanno di fatto bloccato il gioco democratico. Cioè hanno salvaguardato lo status quo delle forze politiche che ci sono e invece dovrebbero, come dire, dovremmo favorire, a mio avviso, delle forme che aiutino l'iniziativa politica, non il partito. Esatto. Così, ad esempio, comitati referendari, comitati specifici tematici con obiettivi dovrebbero avere da parte dello Stato l'aiuto che si fa con servizi. Servizio vuol dire lo spazio per fare l'assemblea, che viene messo a disposizione, magari è uno spazio pubblico, una sorta di co-working civico, diciamo così, ma mai il finanziamento tra l'altro di imprese politiche in perdita come questa dei DS e dell'Unità. Allora, c'è chi difende anche l'Agenzia delle Entrate, per esempio un ascoltatore dice: sei patetico, gli atti sono validi e basta. E chi la firma questa roba? Heinrich? Chi è che mi sta mandando questo sms? Sono validi e basta? Cosa dire sono validi e basta? Se per anni abbiamo assistito a cordate illegittime di dirigenti dell'Agenzia delle Entrate. A voi non turba? A me sì. Sapete perché? Perché erano all'obbedienza personale di chi la guidava, cioè obbedienza politica, e obbedienza anche all'interpretazione delle norme, perché in questo la politica ha anche delegato all'Agenzia delle Entrate l'interpretazione autentica del diritto tributario, ruolo improprio, e venivano scelti in base a questo. Francamente, se a voi piace, a me non piace, non mi piace per niente che un pezzo dell'amministrazione dello Stato, come si è visto in queste ultime settimane, si senta titolare di un'autonomia e di un'indipendenza come se fosse la magistratura, perché l'autonomia e l'indipendenza della magistratura c'è l'articolo 101 della Costituzione, quella dell'Agenzia delle Entrate non c'è. E non ci deve essere, perché è un braccio esecutivo dello Stato, non è quella che si scrive i testi e che ce li interpreta. Perdonate, a me sembra una questione di fondo invece. C'è naturalmente poi anche tanta gente che invece non la pensa così, però non sono pochi quelli che difendono il fatto che lo Stato deve incassare in nome della lotta all'evasione. Ma quale lotta all'evasione? Ma voi le avete mai, quando ragionate così, ma le avete mai ricevuti degli accertamenti e delle cartelle? O ne parlate in giro con chi ha un lavoro autonomo e così via? Cioè avete l'idea di che cosa arriva a contestare lo Stato? e del perché si accanisce su dove c'è reddito evidente invece di cercarne dove non ce n'è, perché è più facile, e comunque raggiungono i loro incentivi di obiettivo in questo modo i dirigenti di Agentrate, altra battaglia che per anni abbiamo condotto e che è condivisa dal sottosegretario Enrico Zanetti, che però mi sembra insomma un po' in difficoltà all'interno del governo. Allora una pausa, poi una pausa adesso di un minuto per la circolazione stradale, e veniamo a questa, al giudizio anche su questa sentenza della Cassazione, al segretario dei Radicali che è con noi, e poi le vostre telefonate. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta la versione di Oscar. Allora, eccoci tornati in diretta, due vicende, 107 milioni più altri 18 milioni che arriveranno, quindi 125 milioni di euro pagati dal contribuente, ma sono i debiti dei DS nella loro vecchia unità, e poi li paghiamo noi, e poi la Corte di Cassazione che straccia decine e decine di pronunzie dei giudici tributari favorevoli ai contribuenti sulla nullità degli atti firmati dai dirigenti dichiarati illegittimi dalla Corte Costituzionale, e dice invece che il principio della sete di cassa deve prevalere. La Cassazione dice lo Stato ha sempre ragione, cioè in altre parole saranno pure i legittimi dirigenti, però intanto gli atti restano validi e voi pagate, cari contribuenti. Che pensi di questa sentenza della Corte di Cassazione, Riccardo Maggi, segretario dei Radicali? Penso che, come a volte avviene, c'è un giudice che ha salvato lo Stato, uno Stato che non rispettava la propria legge. In realtà questi non sono atti validi e basta, come ti ha scritto l'ascoltatore, questi sono atti sanati, sono atti illegittimi che sono stati sanati, perché se lo statuto del contribuente, che purtroppo è una legge ordinaria e forse invece dovrebbe diventare una legge di rango un po' più forte per resistere anche a una serie di leggine che ogni tanto la insidiano, ogni e tanto, anche ad alcune sentenze come questa, esatto, che prevede che ci debba essere indicato un responsabile del procedimento che deve avere determinate caratteristiche e una determinata qualifica, la qualifica dirigenziale, è evidente che poi la sentenza invece ci dice che basta una delega purché non sia in bianco. E quindi anche se non sei un dirigente dell'amministrazione, un dirigente dell'Agenzia delle Entrate che ha fatto un regolare concorso, questa delega sana la situazione. Ma il punto di diritto è assolutamente insostenibile questa cosa. No, sono contento che lo pensi anche tu. Purtroppo temo che la quiescenza alla sete di cassa dello Stato, su questo non ho visto dichiarazioni da parte di nessuno, a dire la verità, neanche dell'opposizione, quindi c'è poco da fare. Quando si tratta di far incassare lo Stato, tutti, tranne rarissime eccezioni, antepongono la cassa dello Stato agli elementari diritti, rispetto degli elementari diritti del contribuente. Sentiamo un po' come la pensate voi che avete telefonato. Cominciamo con Luciano che ci chiama da Savona. Prego Luciano, dica. Ciao Giannino. Eccoci. Che c'è da dire? Qui abbiamo uno Stato che evidentemente non persegue la strada della giustizia, ma la strada dell'interesse personale, che purtroppo non è l'interesse dei cittadini molto spesso. Abbiamo moltissimi esempi, abbiamo il problema della rivalutazione delle pensioni, un governo che si prende la briga di dire vabbè ti viene tot, ti do il 12% e va bene così, e adesso siamo tutti costretti a fare un ricorso i cui esiti sono dubbi proprio, stato dove c'è dubbio che adesso sono molto più dubbi di prima, dove la giustizia è quello che è. Poi abbiamo i debiti dello Stato in tutte le sue varie emanazioni. Perché un privato non può avere la facoltà di dilazionare i propri pagamenti come ce li ha lo Stato? lo so, viviamo in questo principio di supremazia assoluta, di asimmetria totale del diritto, questa è la verità vera. Però ripeto, la concezione statolatrica accomuna la destra e la sinistra nel nostro paese, questa è l'anomalia di fondo, cioè a pensare alla maniera liberale classica, siamo quattro gatti spennacchiati, questa è l'amara verità, proprio amara, perché è una sconfitta culturale, perché è una sconfitta dell'impostazione di basilare del conoscimento dei diritti naturali nei confronti dello Stato. Purtroppo siamo in quattro gatti spennacchiati, derisi e spernacchiati per di più. Paolo da Pistoia, come la pensa? Buonasera, signor Giannino. Buonasera. Senta, io volevo dirle una cosa sul discorso del 125 milioni di euro del, per l'unità. Per salvare l'unità, il quotidiano di ESO. O PC, o insomma soliti comuni. All'epoca erano i DS, sì, esatto. All'epoca erano i DS. Ecco, riusciva a sapere come, chi è che ha votato a favore e chi contro. Il governo era governo Prodi nel 98, lo votò la maggioranza, ma anche con voti di convergenza da parte dell'opposizione, perché siccome era un meccanismo a favore della garanzia dello Stato su l'esposizione degli organi di partito, la cosa naturalmente era popolare. L'iniziativa però e il consenso venne dal governo, che era di centrosinistra, e come si è visto poi beneficiare, tranne, ripeto, i 9 milioni della crisi che si trascinava dai tempi di Craxi e del suo esilio oramai e della sua morte dell'Avanti, in realtà ne hanno utilizzati solo i DS per questa cifra. Quindi Sergio Rizzo scriveva ieri praticamente una leggina fatta apposta per loro. Giancarlo da Bologna, come la pensa? Buonasera, con l'accento romagnolo vorrei sottolineare, avrei argomenti su tutti e due i casi, immagino. E sono un ultra arrabbiato con lo Stato. Riferendomi ai 125 milioni, io vorrei dire che vorrei vedere una causa contro Sposetti e il segretario dei DS, perché in origine la legge forse tutto sommato diceva, vabbè, a fronte di garanzie diamo un avallo dello Stato, ma subito dopo Sposetti e chi era il segretario dei DS allora, mi pare D'Alema, fecero in modo, come lei ha già sottolineato, di spostare le proprietà che erano la garanzia in varie fondazioni, per cui c'è stato proprio un piano, è stato fatto e in più, studiato. È in più. Sposetti ebbe l'intelligenza, da questo punto di vista, luciferina, però da questo punto di vista lui è bravo, di operare una discontinuità tra l'eredità economica dei soggetti che poi hanno fondato il PD, Margherita e Democratici, rispetto ai DS, in maniera tale di avere la certezza che a quel punto i debiti dei DS, garantiti per legge, fossero pagati dallo Stato e non ereditati dai successori. Non so se è chiaro. Un vero, diciamo, intelligente da questo punto di vista, servitore della causa di come far pagare altri invece che i DS. È andata esattamente come ha detto lei. Roberto da Torino, come la pensa, Roberto? Oddio, buonasera a tutti, buonasera Giannino, ma direi che una sintesi relativa è abbastanza semplice. Tutti coloro che gestiscono uno Stato, più o meno un'azienda, hanno una sola missione, l'autoreferenzialità. E quindi sono non lì per fare i miei e i suoi interessi. Public choice, questo ce l'ha insegnato, sì. Direi, è chiaro, quando è così, io posso solo dedurre una cosa: o il popolo è completamente stupido, cretino, cieco, menefreghista, e noi sappiamo che non è così in realtà, ecco, e allora vuol dire che è buona di questa gente continua a sbagliare regolarmente, a votare e a mandarsi qualcuno, non che sia un mestiere facile, no, ma molti di quei politici forse hanno lavorato 3 giorni, 4, sto esagerando, e quindi nella vita reale non ci stanno, chiacchierano, tant'è che ognuno di loro non mollerebbe mai la loro posizione, perché nessuno li assumerebbe. Lo so, Roberto, siamo sempre a morderci la coda e a morderci le mani. Detto tutto questo, queste due notizie valgono la pena, descrivono davvero la nostra condizione rispetto allo Stato. Voi state lì a litigare se è lo 0,2 in più che si deve a Renzi o meno, ma il punto di fondo sono questi qua. Continuate con Radio 24, appuntamento alle 8:15 di mattina con Alessandro Milan. Attenti a noi due.